Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Recuperano in buona parte i cali le borse, adesso Milano è invariata, perdeva intorno allo 0,70% a metà giornata, Parigi meno 0,20%, la peggiore resta Francoforte che perde l'1,40% e Londra invece è addirittura positiva di uno 0,35%, l'America invariata. Questo per quello che riguarda i mercati finanziari, in un giorno in cui segnaliamo il calo relativo, ci mancherebbe, dell'euro sul dollaro, siamo a quota 1,42,46. Chiudiamo l'aggiornamento di borsa con i titoli: Pirelli meno 3,1%, Popolare di Milano meno 1,70%, Fiat meno 1,60%, bene Terna più 1,50%, ma come sentite i rialzi sono molto contenuti, Campari più 1,50% e Intesa San Paolo anch'essa, l'1,12% lo guadagna Telecom e anche Tods, lo 0,90%. Exor, Snam, Rete Gas. Poi c'è il fronte manovra. Allora, le ultime indiscrezioni di nemmeno mezz'ora fa. L'emendamento firmato dal Ministro dell'Economia Tremonti e dal relatore Azzolini, depositato in Senato, prevede per i reati fiscali, qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore ai 3 milioni di euro, subito in carcere. E quindi nemmeno la sospensione condizionale della pena prevista dal codice penale, cioè non verrebbe applicata la sospensione condizionale della pena, si andrebbe direttamente in carcere per un'evasione di questo tipo. Non ce ne sono state molte scoperte, ma alcune hanno fatto anche scalpore, ricorderete la vicenda di alcuni giorni fa a Vicenza. Ancora, i comuni potranno pubblicare i dati delle dichiarazioni, potranno pubblicare. No però contrario alla pubblicazione dei redditi online il presidente dell'ANCI, cioè dei comuni italiani, Osvaldo Napoli, dice: se si tratta di fare i delatori noi siamo contrari. Il 100% dei guadagni della Robin Tax, quella che verrà applicata sulle società energetiche, andranno a ridurre i tagli agli enti locali, quindi verranno dati ai comuni, non ai ministeri. Questo è un altro emendamento, sempre firmato dal ministro Tremonti e dal relatore Azzolini, esclusa l'estensione della Robin Hood Tax ad altri settori. E ancora, poi notizie un po' contrastanti arrivano sul fronte degli incassi dall'evasione, perché il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, oggi ha detto che dei 4 miliardi di euro non riscossi per il condono 2002, circa 2 miliardi e mezzo sono inesigibili perché le società sono fallite o non esistono più i soggetti. Tra l'altro, questa era una delle ipotesi per rafforzare la manovra, cioè recuperare questi 4 miliardi ancora non riscossi dal condono del 2002. Però gente che ha fatto il condono ma poi ha pagato la prima rata, forse la seconda, non tutte le rate, e allora Befera chiarisce che 1,5 miliardi di questi 4 non si potrà comunque recuperare perché non esistono più i soggetti. Ne parleremo più avanti, e così come cerchiamo di fare anche il punto su quanto stia avvenendo, cioè le critiche che arrivano. Domani Focus Economia sarà in diretta da Cernobbio per il workshop Ambrosetti a Villa d'Este. Numerosi ministri europei, economisti, vi sarà anche Nuno Rubini, tutti a discettare, a analizzare quello che è successo soprattutto in estate, e in particolar modo il timore, che secondo alcuni è un timore molto molto forte, che vi possa essere una nuova recessione, una stagnazione economica già da fine 2011 e inizio 2012. E anche a ragionare su manovre finanziarie tutte dettate dall'emergenza dei mercati. Alcuni hanno criticato il fatto che i governi si sono mossi sotto dettatura dei mercati invece che fare manovre anche per la crescita e non solo con tagli e tasse che comunque portano un elemento recessivo nel futuro. 349 238 6666 per i vostri sms. Partiremo subito però raccontando anche quanto costa la corruzione in questo paese. Abbiamo fatto lunghe campagne contro l'evasione fiscale e se qualcuno che scrive non se le ricorda, mi dispiace per lui, ma da sempre questo programma non solo racconta le varie categorie di lavoratori, quanto dichiarino ristoratori, gioiellieri e quant'altro, ma fa anche approfondimenti sull'evasione fiscale. Non c'è solo l'evasione, c'è anche la corruzione, le due voci purtroppo viaggiano spesso in parallelo, e c'è un bellissimo libro su questo che vi presenteremo. Poi, come sempre, i mercati finanziari, la vicenda Fiat, è uscito poco fa il dato che la Chrysler ha avuto un ottimo risultato negli Stati Uniti, più 51% le vendite. Ma restano i timori sull'impegno della Fiat in Italia e poi arriveranno alle 18.05 i dati auto. La Fiat, per la precisione, Chrysler ha fatto più 31% nel mese di agosto come immatricolazioni. Chrysler è il dato migliore dall'agosto del 2007. Rapidamente le altre notizie in breve. Oro sempre forte ma in leggero calo, $1,817 l'oncia, petrolio fermo $88,7 al barile. Sono tutti un po' fermi i mercati, al di là di quelli azionari, in attesa di capire se vi sarà una nuova ondata di vendite oppure se quello che è successo tra fine luglio e agosto si può archiviare. Oggi facciamo notare che la Banca Centrale Europea è tornata a comprare anche obbligazioni italiane, lo ha confermato la Banca Centrale Europea, ma ciò nonostante la differenza tra quanto rende un BTP italiano e quanto rende l'equivalente tedesco, cioè quanto costano in più trovare finanziatori per il nostro debito, è tornata a 300 punti. Lo spread con il Bund, per essere tecnici, è tornato a 300 punti, che è un livello alto, molto alto. Una notizia ancora dagli esteri: l'Unione Europea ha deciso di rimuovere tutte le sanzioni che bloccavano le attività di 28 società libiche, quindi ha scongelato 6 porti e una serie di compagnie petrolifere e banche. E poi il Consiglio Nazionale di Transizione Libico, il neo governo libico, ha detto che i contratti sullo sfruttamento del petrolio libico saranno assegnati sulla base del merito e non per favoritismi politici. Lo ha detto in Gran Bretagna il rappresentante Guma Al-Ghamatai. Dagli Stati Uniti invece il dato, o meglio si chiama è un indice, si chiama ISM, manifatturiero, e fa il monitoraggio di come va il settore manifatturiero negli Stati Uniti. Ebbene, è sceso a 50,6 punti, è al limite tra, diciamo, espansione economica e stagnazione economica. Sotto 50 punti infatti si va in stagnazione economica. Gli economisti si attendevano un dato anche peggiore, però ciò nonostante l'economista, che appunto sarà tra gli ospiti del workshop Ambrosetti domani a Chernobyl, Nouriel Roubini, è stato ancora molto molto critico sulle possibilità che non vi sia una recessione. Secondo Roubini, le possibilità per Stati Uniti ed Europa sono pari al 60% che l'anno prossimo vi sia una recessione economica. First of all, we have reached a stall speed in the economy, not just in the US but also in the Eurozone, the UK. Abbiamo raggiunto una situazione di stallo dell'economia, non solo negli Stati Uniti, ma anche nella zona euro e nel Regno Unito. A questo punto abbiamo una probabilità del 60% di entrare in recessione l'anno prossimo e purtroppo siamo a corto di strumenti per fronteggiarla. Tutti i paesi hanno varato misure di austerità fiscale che comporteranno un drenaggio fiscale. Oggi gli stati sono loro stessi in difficoltà e non sarebbero in grado di salvare le loro banche che navigano in cattive acque. Tutti vorrebbero una valuta più debole, ma se una moneta è più debole, un'altra deve essere più forte. Ci saranno ulteriori allentamenti monetari e operazioni di quantitative easing da parte della Fed e di altre banche centrali, ma il canale del credito è ormai inefficace. Ancora due dati dalla Germania: il PIL tedesco nel secondo trimestre confermato in rialzo del 2,7% rispetto a un anno prima, Il deficit tedesco scende al livello più basso dai primi sei mesi del 2008 e questo conferma il virtuosismo tedesco. E poi nuovi commenti alla nostra manovra finanziaria, di cui torneremo a occuparci, però registriamo ancora un Financial Times che definisce la maggioranza di governo impantanata. La crisi, scrive il quotidiano britannico, porta a galla le debolezze dei principali attori della commedia italiana. E poi il Wall Street Journal, di nuovo molto duro sulla nostra manovra, scrive oggi: in passato le buffonate di Silvio Berlusconi hanno danneggiato l'Italia, oggi potrebbero danneggiare l'intera zona euro. L'Europa potrebbe finire per pagare un prezzo elevato per il teatrino della politica italiana. E si commentano da sole. 349-238-6666 per i vostri sms. E adesso, come dicevo, parliamo una volta tanto non solo di evasione, ma anche dei costi della illegalità, i costi della corruzione. E allora, come dicevamo, parliamo dei costi, non della corruzione, dei costi della illegalità. Che vuol dire sì corruzione, ma anche criminalità, truffe e soprattutto evasione fiscale. Sono temi che abbiamo toccato, come sempre, anche quest'anno e lo vogliamo fare oggi approfittando di un libro. Dico subito però che il tema dell'evasione che a noi interessa non è l'evasione dei piccoli, non è la microevasione. Non voglio iniziare con le solite polemiche su quanto lo Stato poi opprima i piccoli contribuenti e quanto secondo alcuni l'evasione, un certo tasso di evasione, sia necessaria per sopravvivere. Qui il problema è rappresentato dalla torta complessiva dell'evasione, i 200 miliardi stimati, il record a livello europeo. Un tasso di evasione su cui ci batte solo la Grecia. E poi la corruzione, che vuol dire anche mafie, ma non solo. Non è un caso che ci siamo occupati anche quest'anno di due vicende, due su tutte, per carità, ce ne sono state anche altre purtroppo. L'inchiesta sulla P4 di Bisignani da un lato, il giro d'affari messo in piedi dall'ex assistente, portavoce, segretario personale di Giulio Tremonti, Marco Milanese. Insomma, il tema è di strettissima attualità ed è uscito un libro, l'editrice è Ponte Le Grazie, il libro si chiama Soldi Rubati e l'ho scritto una collega che è Nunzia Penelope, che è nostra ospite oggi. Innanzitutto ciao Nunzia. Ciao. Grazie. Allora, come sempre, quando portiamo un libro in trasmissione lo facciamo anche ascoltare, perché il sottotitolo del libro è Corruzione, criminalità, truffe, crack, evasione fiscale sottraggono ai cittadini centinaia di miliardi ogni anno e la possibilità di vivere in un paese migliore. Il tema c'è tutto e soprattutto mi interessa capire perché l'opinione pubblica abbia in questi ultimi anni la sensazione che invece che ridursi la corruzione in senso lato, e quindi dalle mafie, o l'economia nera, intesa solo non come sommersa, ma anche come economia criminale, come economia che danneggia il paese, invece che ridursi, dicevo, sia andata ad aumentare. Allora lì la possibilità è o che ne stiamo parlando di più, oppure che obiettivamente il tasso di illegalità in questo paese, nonostante gli sforzi, penso alla Confindustria Sicilia, che poi ha contaminato in senso positivo la Confindustria nazionale, gli sforzi della magistratura, gli sforzi anche della stampa, ebbene il fenomeno sia tutt'altro che in diminuzione, anzi in aumento. Prima di tutto però sentiamo un passaggio del libro in cui tu ricordi quanto ci costa l'economia nera, la corruzione, la criminalità e anche l'evasione, e quale sia soprattutto la madre di tutti i principi della corruzione. Partiamo da tre numeri base. Ogni anno in Italia abbiamo 120 miliardi di evasione fiscale, 60 miliardi di corruzione e 350 miliardi di economia sommersa, pari ormai a quasi il 20% della ricchezza nazionale. ma varrebbe la pena di aggiungere gli oltre 500 miliardi nascosti da proprietari italiani nei paradisi fiscali e su cui non si pagano tasse. 60 miliardi di corruzione e 120 di evasione fanno 180 miliardi l'anno. In 10 anni sarebbero 1.800 miliardi, esattamente quanto l'intero stock del debito pubblico. Si potrebbe azzerarlo e vivere felici. Il debito pubblico è un'entità che suona un po' astratta, una di quelle voci che non dicono granché. Forse è più chiaro se proviamo a calcolare quanto ci costa quel debito. 90 miliardi l'anno di interessi, mentre lo stock, suddiviso per tutti i cittadini, equivale a un debito di 31.000 euro a testa, neonati compresi. Quando si trattano cifre stratosferiche, è difficile capire esattamente di cosa si sta parlando. Vengono in mente i trilioni di Zio Paperone e tutto diventa molto vago. Con i 60 miliardi annui che scompaiono in corruzione, si potrebbe regalare agli italiani una vacanza gratis alle Maldive ogni anno. 60 miliardi di euro divisi per 60 milioni di abitanti fanno 1.000 euro ciascuno. Esattamente quanto viene a costare una settimana di vacanza esotica, viaggio compreso, in bassa stagione. L'ultimo scudo fiscale ha riportato in Italia circa 100 miliardi. Al prezzo di 5.000 euro di tassa ogni 100.000, lo Stato ha incassato così circa 5 miliardi. Ma se su quei soldi fossero state pagate tutte le imposte previste dalla legge, ne avrebbe ottenuti 45. A conti fatti, il Paese ci ha rimesso 40 miliardi. E se si pagassero le tasse sui 500 miliardi, stima minima, la massima parla di 700, di capitali italiani nascosti nei paradisi fiscali sui quali i proprietari non versano al fisco nemmeno un centesimo? Nelle casse dello Stato affluirebbero di colpo 230 miliardi, un'iniezione di liquidità immediata del valore di 10 finanziarie. Se per paradosso tutti questi soldi fossero entrati in cassa nel corso del 2010, l'Italia avrebbe potuto togliersi molti sfizi. Realizzare strade, infrastrutture, ospedali, scuole, portare le pensioni medie a 2.000 euro, raddoppiare l'importo della cassa integrazione. Estendere a tutti senza lavoro un'indennità mensile sul tipo di quelle che hanno gli altri paesi europei, per esempio, costerebbe appena il 15% dei 120 miliardi rubati dall'evasione. Ma il punto di partenza è già molto chiaro ed è l'evasione fiscale. Non suona particolarmente minaccioso, siamo abituati a conviverci. Tuttavia, è lì che si nasconde la madre di tutte le illegalità, da cui discende il resto. La filiera è la seguente. Si evade, si nascondono i soldi, si corrompe per nasconderli e poi, una volta ripuliti attraverso il riciclaggio, si usano per corrompere ulteriormente, oppure per metterseli in tasca. La classe politica del dopo Tangentopoli non è migliorata granché. In compenso, oggi si è aggiunto un aumento esponenziale della corruzione privata, quella dei manager, delle imprese, del mondo della finanza. Gli scandali economici non sono mai finiti. È finita la Tangentopoli della politica, è iniziata quella della società civile. I magistrati che negli anni 90 hanno combattuto la corruzione hanno solo sfiorato la finanza. Le loro inchieste puntavano a mettere nell'angolo i politici, mentre le imprese, più o meno, la scampavano. Forse è stata un'occasione persa. Ma credere di aver fatto pulizia in Italia, decapitando la classe politica corrotta e qualche imprenditore di secondo piano, è stata un'illusione. Gli imprenditori grandi e meno grandi, che all'epoca si erano dichiarati concussi dai politici, negli anni successivi hanno inventato tecniche sempre più sofisticate per creare fondi fuori bilancio, destinati a mazzette e tangenti, in Italia e all'estero. Oltre la metà delle grandi imprese italiane, ma come vedremo ormai anche le piccole, e le maggiori banche, ben 320, hanno una sede in qualche paradiso fiscale. A che serve? A ottimizzare il carico fiscale è la risposta ufficiale ed è sicuramente un diritto delle aziende. Ma c'è un'altra finalità, non secondaria, che è quella di creare partite di giro per nascondere risorse finanziarie. Allora, un giro di numeri che fa venire il mal di testa, appunto, il capogiro, Nunzia Penelope, partiamo proprio dalle ultime considerazioni. Proprio in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, c'è stata una netta sensazione nel paese, vuoi che la crisi economica, come già nel 92, ti fa sentire il maggior peso della corruzione, sei meno disposto a tollerarla. Ma insomma, c'è la sensazione che quasi quasi Tangentopoli fosse un gioco da ragazzi. Allora, al di là della battuta, tu parli di una Tangentopoli che dalla politica è passata alla società civile. Perché abbiamo, secondo te, la sensazione che non solo le inchieste giudiziarie, che pure hanno fatto anche alcuni morti e feriti ingiustificati, che hanno, sono state un po' grossolane delle volte nel travolgere un'intera classe politica, hanno registrato anche vittime, poi rivelatesi appunto vittime non colpevoli, ma perché dopo il 92 nel paese non solo non si è avuto una diminuzione della corruzione, dell'evasione, delle mafie, ma addirittura si ha la sensazione che la cosa sia ripartita in maniera ancora più allargata? Le inchieste hanno spazzato via una classe politica, quella delle imprese è rimasta assolutamente tutta al suo posto. Peraltro questo anche i magistrati dell'epoca me lo hanno raccontato. L'obiettivo era quello di perseguire la corruzione dei politici. Le imprese in qualche modo patteggiavano ed erano lo strumento per arrivarci, no? Per cui poi sono uscite tutte più o meno dai processi. Questo ha significato che sono stati cacciati i corrotti, ma non i corruttori, e quindi se i corruttori restano lì è ovvio che poi continueranno il loro lavoro. Questo naturalmente non significa che tutta la classe imprenditoriale italiana sia fatta di corrotti e di malaffare, però onestamente io devo guardare le pagine dei giornali, che peraltro solo molto recentemente sono tornati a occuparsi di questi temi in realtà, perché per lunghissimi anni abbiamo dato per scontato che tutto questo non ci fosse più, che l'Italia fosse un paese legale, diciamo, non quel tasso di illegalità fisiologica che c'è. Poi a un certo punto ci siamo svegliati da questo bel sogno e abbiamo scoperto, probabilmente perché comunque la crisi economica, come già nel 92, no? Perché poi alla fine le tangenti venivano denunciate semplicemente perché cominciavano a pesare un po' troppo sui costi. Vorrei precisare che non è un libro di cronaca giudiziaria il mio, è un libro scritto da una giornalista economica, per cui io ho voluto semplicemente contare con i numeri e raccontare con i numeri quanto ci costa questa illegalità, perché secondo me, al di là di tutti i discorsi sull'etica, la legalità eccetera, poi i numeri hanno una forza che nessun ragionamento, nessuna predica. Allora, i numeri: 120 miliardi di evasione fiscale, 60 miliardi di corruzione e 350 miliardi di economia sommersa l'anno fanno una cifra spaventosa e secondo me dimostrano che alla fine forse l'unica economia che funziona in questo paese è quella fondata su una lunga lista di reati, che non sono solo questi che abbiamo citato, perché poi i reati sono anche il lavoro nero. Insomma, abbiamo 3,5 milioni di lavoratori in nero, cioè praticamente la popolazione di Roma, no? E non è che questi lavorano in nero per un'entità astratta, lavorano in nero per degli imprenditori che trovano comodo usarli, no? Allora, no, le cifre sono obiettivamente impressionanti, perché i 400 miliardi complessivi di buco nero, di corruzione, evasione fiscale e lavoro nero sono 15 volte in più rispetto ai costi della casta, della politica, che pure sono altissimi in questo esattamente paese. Esattamente, io ho visto quel bellissimo servizio che ha fatto il Sole 24 ore, c'era lo specchietto di tutti i costi della politica. Il calcolo del Sole era 23 miliardi l'anno, praticamente 2 miliardi al mese. Beh, se tu provi soltanto il costo dell'evasione, non sono 2 miliardi al mese, ma sono 12 miliardi al mese. No, vuol dire, però questo non per giustificare i costi della politica, ne abbiamo parlato decine di volte, i costi della politica italiana sono sempre 2-3 volte superiori, certo, ai costi della politica negli altri paesi. Può essere mal costume, ma non è malaffare. No, diciamo che uno può chiedere che la politica costi come negli altri paesi europei, ma obiettivamente pagare uno stipendio alto è diverso che corrompere un funzionario, pagare uno stipendio alto o avere agevolazioni che in altri paesi non hanno sul viaggio, sull'alloggio e quant'altro, non è paragonabile al riciclaggio di denaro sporco o quello che fattura la mafia. Comunque, 180 miliardi di evasione e corruzione, 150 miliardi di riciclaggio di denaro sporco e 135 miliardi il fatturato di mafia, 'ndrangheta. Sì, mafia, 'ndrangheta e camorra. Io vorrei tornare sul tema dell'illegalità, perché dopo Tangentopoli tu dici in realtà ha colpito solo quella classe politica, non ha colpito tutto il meccanismo. Però io aggiungo, le imprese, il politico, l'imprenditore, la classe politica, la classe imprenditoriale si muove in un paese. Allora qui la domanda vera di fondo è: c'è un paese che negli ultimi 15 anni ha accettato, tollerato, ha inglobato, introiettato un'idea di illegalità più alta che nel resto d'Europa? E cioè, i pesci si muovono in un acquario, se l'acqua è poca hanno difficoltà, se l'acqua è tanta e allora passa la vulgata che evadere tutto sommato non è così male perché tanto le tasse sono troppo alte, che una spintarella ogni tanto serve. Da lì è chiaro che l'acquario permette poi anche ai pesci più grandi di muoversi con tranquillità. È ovvio che in questo paese innanzitutto manca la famosa sanzione sociale nei confronti di qualsiasi forma di illegalità, no? Poi questo ormai è diventato un mantra abbastanza banale, però l'Italia è quel paese dove se lasci la macchina in doppia fila è normale, se evadi le tasse è normale, se tradisci la moglie è normale, anzi sei cretino se non lo fai. Io penso che la classe dirigente è la base, che comunque la legge nel caso della politica o la tollera negli altri casi alla fine non siano molto diversi, no? Perché se gli italiani eleggono un certo tipo di politica o hanno a che fare con un certo tipo di classe dirigente, evidentemente gli sta bene. Quello che invece mi colpisce adesso, che effettivamente sta un po' cambiando, perché io trovo gente che mi dice: ah, io ho letto il suo libro, mi ha fatto venire il mal di pancia, il mal di stomaco, adesso basta, questo stato di cose deve finire. Questo adesso, no, non voglio dire, no, perché già ci fu il fenomeno la casta che creò l'antipolitica, non credo che questo crei l'anti-illegalità, però credo un'altra cosa, che nel momento in cui la gente che vive, se va bene, con 1.000 euro al mese, nel momento in cui si rende conto quanti soldi gli togli dalle tasche, qui non è più un discorso generico sulla legalità, qui è un discorso economico. Allora forse, laddove l'etica non funziona, però l'interesse personale, allora nel momento in cui i derubati si renderanno conto di essere derubati, forse cambierà qualcosa, si stuferanno, però non lo so, Speriamo che il concetto passi almeno su un calcolo economico. Sarebbe bello che passasse, cioè che uno non parcheggiasse, per usare l'esempio, no, ma io che facevo sono prima, pragmatica, che uno non parcheggiasse in doppia fila nel posto degli handicappati perché sente che sta facendo una bastardata, non perché ha paura della multa del vigile, però diciamo anche se lo fa perché la paura della multa del vigile, qualcuno glielo deve anche insegnare. Però tutte le leggi che sono state fatte in questi ultimi 20 anni, per l'appunto, sono andate tutte in una direzione opposta. Quasi sono andate tutte, sì. Beh, insomma, la maggior parte sono andate in una direzione di depenalizzazione. Negli ultimi 30 anni l'87% delle condanne per corruzione sono di 2 anni. Sotto i 3 anni, come è noto, non fai neanche un giorno di galera. Io non sto dicendo che bisognerebbe riaprire le galere perché già scoppiano, come è noto, però dei 70.000 circa detenuti nelle carceri italiane, 1 su 3 è un immigrato, 1 su 4 è un tossicodipendente, colletti bianchi o evasori, neanche uno. Vorrei tornare sul ruolo della politica, perché noi all'inizio di questa intervista l'abbiamo tenuta fuori per mia indicazione, cioè non parliamo sempre della corruzione politica, perché come abbiamo visto nel 92 hai colpito l'intera classe politica, giustamente in molti casi, ingiustamente in altri, però poi non è cambiato niente, anzi ci ritroviamo dopo 15 anni a raccontare la stessa storia con alcune aggravanti. Però adesso vorrei reintrodurre la politica nella parte finale, perché è vero che la politica è espressione anche della società che la elegge, e tu dici: se l'abitudine è questa, se chi può lo fa, lo fa anche il politico, lo fa anche il manager e quant'altro. Però la politica ha un'altra responsabilità. Cioè, se tu, oltre che comportarti come la società civile, dai anche una spinta in più, invogli, avalli e poi con delle leggi rendi quasi legale, è un gioco che si autoalimenta. Esattamente, è un gioco che si autoalimenta, ma con un'assoluta degenerazione, perché nel 92, a guardarla da lontano, sembrano quasi giochi da ragazzini un po' monelli, la corruzione di allora, ma adesso dico una cosa che naturalmente verrà molto criticata, ma quella corruzione in qualche modo era finalizzata a un progetto, no? Perché le imprese che si radunavano in cartelli per spartirsi, per pagare mazzette e spartirsi appalti o quant'altro, avevano un progetto. Gli stessi politici che prendevano quelle mazzette avevano un progetto, no? Per l'uno era fare più affari, per gli altri era sostenere i propri partiti. I soldi della politica, certo. Oggi manca un progetto persino alla corruzione. Vero, e prima o poi bisognerà affrontarlo anche forse in un libro, che senza giustificare nulla di quello che scoprirono i magistrati di Tangentopoli, però è vero che probabilmente nel 92-93 che quel meccanismo lì aveva una maggior, tra virgolette, funzionalità. L'imprenditore corrompeva e pagava perché voleva l'appalto, l'accordo. Il partito prendeva perché il finanziamento della politica serviva. Che poi fu il discorso, adesso alcuni mi ammazzeranno per questo, che fece Craxi in Parlamento, se non ricordo male, prima, quando fu chiamato a intervenire, un leggermente diverso. Lui dice: alzi la mano, chiama me. Arriverò a difendere Craxi in questo programma. Però... ma io non lo, neanche io lo difendo, però voglio dire, anch'io, come tu stai per dire, alla fine c'aveva ragione lui, perché quando diceva tutti quanti hanno corrotto... No, ma io il discorso che sto facendo è un po' diverso, e cioè lì all'interno comunque di un reato, e quindi di un illecito, che fosse amministrativo, che fosse anche un illecito penale, e resta l'illecito sia amministrativo che penale, nella maggior parte dei casi l'obiettivo era trovare soldi per la politica e quindi creare un meccanismo di illegalità diffuso, articolato, l'adazione ambientale, la chiamò il pool di Mani Pulite, per arrivare al finanziamento illecito della politica, illecito. Il problema è che qui delle volte scopriamo che questi soldi non servono nemmeno, ammesso che, per finanziare la politica. E tutta questa corruzione ha un fine per la villa, per la piscina, per la macchina del singolo, non per il partito che deve organizzare il congresso nazionale. No, ma anche perché i partiti hanno trovato un ottimo sistema di finanziarsi alla luce del sole. Leggevo sempre sul Sole 24 Ore quant'è il rimborso elettorale per ogni singolo voto preso dai partiti in Italia rispetto a quello degli altri paesi. La politica ha trovato il modo di finanziarsi, diciamo, legalmente, sempre a spese degli italiani. In compenso, i politici il resto se lo spendono per andare in vacanza a New York o per farsi la macchina di lusso. Io la vedo così. Domanda che ho per te, la domanda finale che ho per te in realtà è anche un'altra. Se la politica non sembra in grado in questo momento di riformarsi da sola, io mi auguro di sì, ma non vi sono segnali in questo momento di una politica che ha posto quella che Berlinguer chiamò la questione morale al primo posto del suo programma politico. Vorrei capire se secondo te un cambiamento è possibile al netto della politica, oppure se non avviene un cambiamento in chi poi fa le leggi, interpreta il paese e delle volte fa digerire anche al paese decisioni impopolari, senza questo non si va da nessuna parte. Non vedo la politica in grado di autoriformarsi, non vedo la classe imprenditoriale in grado di autoriformarsi, non vedo la classe dirigente in generale in grado di autoriformarsi e non vedo neanche la popolazione in grado di sollecitare tutto questo. Grazie, vedo anche molti messaggi, adesso risponderò. Grazie a Nunzia Penelope, il libro si chiama Soldi rubati a noi, chiaramente non rubati da loro ma rubati a noi, la casa editrice Ponte alle Grazie. Secondo me alcuni che scrivono così arrabbiati, che ci danno di Robespierre, forse hanno un po' di coda di paglia. Insomma, non lo diciamo noi, è un dato di fatto che l'Italia è in termini assoluti al numero uno in Europa come evasione fiscale e corruzione, e in termini relativi, cioè in proporzione al PIL, ci batte solo la Grecia, che non mi sembra un qualcosa di cui vantarsi. Poi se uno vuole non vedere, non vedesse, però poi... Non lamentiamoci se le misure vanno a toccare, a colpire altre classi e se non si riesce a far ripartire l'economia. A proposito di misure sull'evasione, vorrei collegarmi prima dei mercati finanziari con Andrea Viali, che sta seguendo gli ultimi sviluppi e gli emendamenti presentati dal governo che stanno uscendo in questi minuti. Andrea, buonasera. Sì, buonasera Sebastiano. Allora Andrea, ci confermi, anche perché la firma è di Tremonti, quindi sopra i 3 milioni di euro, alcuni ascoltatori dicono ma perché non 30.000 adesso ragazzi? Cerchiamo di trovare una via di mezzo. Carcere, si va in carcere, ossia non viene applicata la sospensione della pena, perché chiariamo anche questo. Ecco sì, il carcere è previsto per chi evade cifre superiori ai 3 milioni di euro, sì, esattamente. Sì. Poi c'è non è l'unico... Ecco, dici. Esatto. Sì, non è l'unico emendamento che fa parte di questo giro di vite sull'evasione fiscale che era stato in parte annunciato in questi giorni. Ecco, un'altra novità è quella che riguarda i comuni, anzi in realtà non è soltanto una novità riguardare i comuni che potranno pubblicare su internet delle liste con i dati relativi ai contribuenti e alle dichiarazioni dei redditi. Poi sempre ai comuni andrà anche il 100% dei frutti della lotta all'evasione fiscale legata agli immobili che sono sul loro territorio. No, questa è una norma che era prevista dal decreto sul federalismo municipale. Sempre in tema di evasione fiscale, l'emendamento del governo prevede anche che nelle dichiarazioni dei redditi siano indicate le banche con cui si hanno rapporti. Quelle italiane o anche quelle estere? Perché sull'evasione fiscale, cioè, sapere quelle italiane ci vuole poco. Si attendono altri emendamenti per la serata? Stanno uscendo, sì, in realtà abbiamo anche altri particolari di questi emendamenti che riguardano il contributo di solidarietà, salta il contributo, come previsto salta il contributo di solidarietà che lo ricordiamo era del 5% per i redditi sopra i 90.000 euro e del 10% veri redditi sopra i 150.000. In particolare, però, restano alcune misure simili che erano previste dalle manovre precedenti e che riguardano i dipendenti del pubblico impiego e le cosiddette pensioni d'oro. Tremonti ha spiegato che le risorse che arriveranno dalla lotta all'evasione fiscale sono pari al gettito che è previsto dal venir meno del contributo di solidarietà. Quindi quei 2 miliardi e mezzo in meno, anzi 4 complessivamente tra la riduzione dei tagli alle province e ai comuni e al minor gettito dovuto al fatto che viene eliminata la tassa di solidarietà sopra i 90.000 euro lordi o sopra i 150.000 euro lordi. Confermata per i dipendenti pubblici, però tu mi stai dicendo, Andrea, giusto? C'erano delle misure simili, non erano esattamente non erano identiche, un contributo di solidarietà che riguardavano dipendenti pubblici e le pensioni d'oro, le pensioni più alte. Parlavi degli enti locali, ci sono novità anche per gli enti locali perché è previsto che i maggiori proventi che arriveranno dalla Robin Hood Tax, la tassa sulle società del settore energetico, andranno a ridurre i tagli agli enti locali e non più anche quelli i tagli che erano previsti per i ministeri. Per i ministeri. Inizialmente questo alleggerimento era diviso 50% per gli enti locali e 50% per i ministeri. E a questo punto i proventi della Robin Tax andranno tutti a ridurre soltanto i tagli agli enti locali. Il gettito della Robin Tax era all'incirca di 1,8 miliardi di euro. In realtà i tagli agli enti locali sono più alti, se non ricordo male, erano attorno ai 6 miliardi, e quindi non c'è di fatto l'azzeramento che viene chiesto anche in queste ore da sindaci e governatori che restano, possiamo dire, sul piede di guerra. Allora, da quello che si capisce negli emendamenti, i comuni potranno pubblicare dichiarazioni dei redditi, non dovranno. Attenzione, questo non è vincolante. A chi ci chiede invece come si chiamasse il libro che abbiamo presentato, Nunzia Penelope, autrice del punto Soldi Rubati, edizione Ponte Le Grazie. Grazie al nostro Andrea Viali. ...17:47 minuti. Allora, la borsa oggi, una borsa influenzata anche e soprattutto dal settore media, televisivo. Cosa è successo? C'è stato un vero e proprio tonfo in Francia per il gruppo Lagardère, che ha tagliato le stime per l'anno in corso. Hanno perso oltre l'11%. Lagardère è proprietario anche di TF1, ha quote in Canal Plus, 11%, e conseguenze anche in Italia sul titolo Mediaset. Come notizia, diciamo, diversa dalle altre, Mediaset è il secondo peggior titolo, perde l'1%, oggi i cali sono molto contenuti. La buona notizia però è che la borsa alla fine ha chiuso in positivo, più 0,70 Milano, dopo aver perso circa meno 0,70 in media, e Parigi ha chiuso anch'essa in positivo, più 0,30, Londra più 0,20, è rimasta in negativo Francoforte, che era da stamattina la peggiore, meno 0,94%. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, c'è stato un dato manifatturiero americano che ricordavamo in apertura, è sceso l'indice ma non sotto il livello di 50 punti che sta a segnalare l'ingresso nella recessione. Questo un po' ha fatto respirare i mercati. Sì, abbiamo visto un'accelerazione dei mercati proprio in corrispondenza del dato dell'ISM manifatturiero che, come tu ricordavi, è sceso ma si è fermato a 50,6 punti e appunto quindi oltre la soglia che distingue un settore in espansione da uno in contrazione. Le attese erano per 49 punti, quindi sotto questa soglia il mercato ha almeno parzialmente festeggiato questo dato e l'apertura di Wall Street ha festeggiato anch'essa questo dato, arrivando a far guadagnare Wall Street oltre mezzo punto percentuale. Poi Wall Street ha piano piano rallentato, adesso è in parità e ne hanno fatto le conseguenze i principali indici, non Milano che è riuscita a tenere sul finale un guadagno consistente, più 0,7% il FTSE MIB, con energia e alcune banche in buon recupero. In buon recupero, citiamole allora, energia e banche. Intesa San Paolo più 2,5%, Terna più 2%, ancora Eni più 1%, Enel più 0,90% come Enel Green Power e Unicredit più 0,60%. Bene anche Telecom Italia più 1,80%, Exor più 1,60%, Campari più 1,5%, Toz più 1,30% come Lottomatica, Atlantia più 1%, Pirelli, peggior titolo, va detto che molto molto era cresciuto in questi giorni. Sì, nelle ultime nell'ultima settimana, nelle ultime sei sedute, Pirelli aveva guadagnato quasi il 16%, quindi dei realizzi che ci stanno per questo titolo, che abbiamo visto che riparte abbastanza bene non appena gli umori dei mercati si fanno positivi. Ieri c'era una particolare attenzione sul settore industriale e sull'auto positiva di cui ha beneficiato sia Pirelli che Fiat. Oggi invece si è andata un po' a correggere questa posizione, subito a realizzare su Pirelli, come vediamo che si fa subito quando un titolo guadagna molto. Ancora, i tre migliori in assoluto, il migliore è Ciccolella, più 10,91%, Vivai, Vivaistica, Viva i Fiori, e poi Prelios è l'ex Pirelli Real Estate, ceduta dal gruppo, la parte che si occupava di immobili, più 8,21%, che nel settore immobiliare è una cosa che non si vede spesso. No, Prelios sta approfittando da un paio di giorni di questa vendita di due centri commerciali nel portafoglio High Street, sono un portafoglio gestito da Pirelli Red, appunto da Prelios, e di cui è anche proprietaria per una quota superiore al 10%, ha venduto due centri commerciali a Monaco di Baviera, sono i centri commerciali del gruppo dei grandi magazzini tedeschi Karstadt, che sono appunto di proprietà di questo portafoglio. La vendita di questi centri commerciali fa diminuire l'indebitamento di un portafoglio un anno fa considerato molto a rischio quando fallì il gruppo Arcandor, ecco perché Prelios ne sta beneficiando sia ieri che oggi. E tu citavi invece Ciccolella, da due o tre giorni dopo i dati semestrali, anche se non particolarmente brillanti, ma comunque in tenuta per quanto riguarda gli utili, il gruppo appunto del settore vivaistico sta approfittando in borsa di un buon recupero, oggi ha guadagnato l'11%. Sì, ebbene oggi anche De'Longhi che guadagna il terzo miglior titolo, più 8%, Nokia più 5,21%, sul fronte opposto invece risanamento meno 5,80%. Chiudiamo con Fiat, che è il nostro prossimo approfondimento. Oggi un po' divergente l'andamento dei titoli del gruppo Fiat, cioè Exor guadagna l'1,60%, Fiat Auto perde lo 0,80%, Fiat Industrial meno 0,52%. Buoni dati da Chrysler, molto buoni, più 31% le immatricolazioni negli Stati Uniti di Chrysler, il dato migliore dal 2007, e tra circa 10 minuti usciranno anche le immatricolazioni italiane. Andrea. Certo, l'attenzione è tutta sulle immatricolazioni italiane che verranno diffuse tra pochi minuti, e le attese non troppo positive hanno avuto riflessi sull'andamento del titolo fin da questa mattina, anche se diciamo interamente nel suo complesso il settore auto non è stato troppo brillante oggi. C'è da dire che questo dato di Chrysler che tu ricordavi è arrivato praticamente nell'ultima ora di negoziazione, nell'ultima mezz'ora di negoziazione, ha certamente permesso a Fiat S.P.A. di ridurre le perdite. Ieri Fiat Industrial era stata la migliore tra le migliori e ha un po' corretto oggi, si è tenuta invece bene Exor, come tu ricordavi, ma l'attenzione è certamente per il dato italiano che sarà pubblicato tra poco. Sì, e l'attenzione su Fiat però in realtà è anche su altro, ossia sull'ipotesi presente oggi su molti giornali che Fiat stia progettando lo spostamento della produzione dei SUV Jeep e Alfa Romeo da Mirafiori agli Stati Uniti, e in Italia resterebbe solo una City Car. Molta perplessità, molte preoccupazioni anche tra i sindacati. Intanto grazie Andrea Fontana. Allora, Fiat e dove andrà a produrre? Una valutazione ancora in corso, però insomma nei giorni scorsi il numero uno di Fiat, Sergio Marchionne, aveva rassicurato il presidente della regione Piemonte, Roberto Cota, sull'investimento pari a 1 miliardo di euro nello stabilimento di Mirafiori. Non era stato detto però quale modello volesse produrre. E oggi a Torino si riuniscono i 22 top managers di Fiat e Chrysler, il primo appuntamento del consiglio, diciamo, dei due gruppi ormai fusi, si chiama Global Executive Council. Marco Ferrando da Torino, buonasera. Dov'è il corrispondente del Sole 24 Ore? C'è qualche sviluppo? Perché insomma, l'ipotesi, e perché preoccupa così tanto l'ipotesi che si produca la City Car e non più la Jeep, il SUV della Jeep e l'Alfa Romeo? Ma diciamo che la questione è nodale perché di fatto Per due motivi, un po' perché si parla di Mirafiori, che di fatto rimane sicuramente uno degli stabilimenti simbolo dell'auto in Italia, quindi come dire, è un buon indicatore di quelle che possono essere non solo le prospettive a breve periodo, ma anche sul medio-lungo periodo dell'auto in Italia. E un po' perché effettivamente produrre i SUV, come sembrava fino a qualche giorno fa, avrebbe voluto dire portare in Italia una produzione di piattaforma americana, ma soprattutto ad alto valore aggiunto, e quindi, come dire, aprire un capitolo che in Italia al momento è chiuso. L'alternativa che sembra sul tavolo, quella di una city car, vorrebbe dire una produzione di gamma più bassa, quindi più tipicamente italiana, diciamo così, ma sicuramente a valore aggiunto molto più modesto, quindi con ricadute anche probabilmente inferiori sull'indotto. Anche se bisogna dire che comunque si tratta di ipotesi che, come accennavi, sono allo studio proprio in questo momento, in queste ore, in questi giorni, da parte del vertice unico ormai di Fiat Chrysler. e 6 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per tornare sui temi di attualità, ma ampliandoli anche a quello che sta succedendo. Da più parti abbiamo ascoltato questa, nella prima ora del programma, l'affermazione di Nuriel Rubini, uno degli economisti considerati, sì, oltre che un po' un gufo, ma un gufo che ci azzecca. Ha detto che il 60% delle possibilità vi sono che America e Europa possano tornare in recessione. L'accusa che domani verrà analizzata anche al workshop Ambrosetti a Cernobbio da ministri degli esteri di vari paesi europei, economisti, lo stesso Rubini, e in sostanza può essere così tradotta: attenzione che tutte le manovre che i vari governi stanno approntando, e cioè Francia, Spagna, ma e soprattutto Italia, sono dettate dalla pressione dei mercati, e quindi sono manovre che, con un paradosso, rischiano di far precipitare o portare poi le economie europee in una recessione. Sono manovre recessive, l'ha detto anche la Banca d'Italia, bisognava avere i nervi più saldi e fare manovre che fossero anche orientate alla crescita. E allora, per parlare di quello che è successo quest'estate, tra fine luglio e metà agosto, quello che ha portato e come lo si sta risolvendo, abbiamo un gradito ritorno dalle tenebre estive. Aleggia su di noi lo spettro di Giulio Sapelli, economista, insegna storia economica alla Statale di Milano. Buonasera, Sapelli. Buonasera dalle tenebre di Mergo. Ecco, dalle tenebre di? Riemergo. Ah, no, riemergo, no. Non capito. Posso dire da quale inferno scaturisco. No, ecco, allora, lei quello che è successo quest'estate dove l'ha seguito dal mare? L'ho seguito da diversi luoghi, sempre tenebrosi. Sempre tenebrosi. Allora, sì. Prima critica, domani ascolteremo un'intervista che abbiamo realizzato con Guido Rossi, che dice in sostanza, attenzione, si stanno salvando le banche, i paesi si indebitano, e poi finiscono anche, rischiano anche la recessione perché i debiti aumentano, i mercati e la speculazione li attaccano. Salvando le banche, altro non si fa che salvare gli speculatori. È d'accordo? Beh, insomma, Rossi è noto per il suo pensiero molto più apocalittico del mio, perché con scarso fondamento scientifico. Quindi no, diciamo che sicuramente si sono salvate le banche, ma nonostante che io sia molto critico sull'organizzazione della banca universale ad eccesso di rischio, che ha poi portato alla terribile crisi finanziaria in cui siamo immersi, non si può avere un rapporto casuale, così meccanico, salvi la banca, salvi gli speculatori. No, purtroppo non abbiamo fatto in questi ultimi 3-4 anni la vera riforma che dovevamo fare, che aveva chiesto il vecchio Volcker a Obama, che gli inglesi, il governatore della Banca d'Inghilterra ha chiesto, cioè di ritornare a com'era la situazione degli intermediari finanziari prima del Glass-Steagall Act, cioè prima della legge Amato in Italia, cioè tornare alla legge bancaria che avevamo dopo il 36, che aveva funzionato benissimo, cioè separare le banche di investimento, le banche che rischiano di più e che investono spesso con i soldi dei depositanti, dalle banche invece che fanno marginalità erogando credito alle imprese. Quindi questa è la prima riforma che dovevamo fare e non abbiamo fatto. Perché? Perché i governi dipendono tutti dalla grande oligopolio finanziario mondiale, non c'è un ministro dell'economia che non venga da Goldman Sachs, dal Fondo Monetario Internazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, addirittura dei primi ministri, noi l'abbiamo avuto in Italia, un signore che veniva da Scandiano per molti anni ed era un uomo di Goldman Sachs. Quindi voglio dire, questa cosa che Rossi dice dovrebbe innanzitutto mettersi d'accordo con se stesso, perché mi pare che vada d'accordo con questi qui. Insomma, quindi, vabbè, insomma, direi che però... Quindi, non... andiamo con l'ordine di sapere. Lei dice, attenzione, allora, questa separazione che... tra banche ed affari, ecco, e banche retail, cioè quelle che raccolgono i risparmi, non è avvenuta perché le pressioni e i conflitti di interesse, la contiguità tra finanza e poi... politica altissima. Le faccio ascoltare enorme. Un passaggio di un film che già abbiamo presentato, ma eravamo durante la tempesta di fine luglio, inizio agosto, che ha vinto l'Oscar come miglior documentario quest'anno. Inside Job è la storia di come si è arrivati alla crisi. Tutto non lo possiamo far sentire, ma c'è un passaggio bellissimo che spiega come Barack Obama prima fece una campagna contro gli speculatori di Wall Street e poi mise nel suo governo tutti quelli che appartenevano a Goldman Sachs o che avevano contribuito alle leggi dell'amministrazione Bush. Forse i problemi nascono anche da questo. L'era dell'avidità e dell'irresponsabilità di Wall Street e di Washington ci ha portato alla crisi finanziaria più grave mai avuta dalla Grande Depressione. Quando arrivò la crisi, poco prima delle elezioni del 2008, Barack Obama evidenziò come i fallimenti di Wall Street fossero degli esempi per il bisogno di cambiamento in America. La negligenza di Washington e di Wall Street è ciò che ci ha condotto a questo disastro. Dopo essere stato eletto, il presidente Obama parlò di riforme dell'industria finanziaria. Vogliamo un regolatore di rischi e dei requisiti patrimoniali. Abbiamo bisogno di proteggere i consumatori. Cambierò la cultura di Wall Street. Ma quando le riforme vennero messe in atto nella metà del 2010, si rivelarono deboli. E per alcune aree critiche, come le agenzie di rating, le compensazioni e il lobbying, non fu proposto niente di significativo. Obama scelse Timothy Geithner come segretario al tesoro. Geithner era il presidente della New York Federal Reserve durante la crisi e una delle persone chiave nel decidere di pagare la Goldman Sachs per le sue scommesse contro i mutui. Come nuovo presidente della Federal Reserve fu eletto William C. Dudley, ex capo economista della Goldman Sachs e coautore di un articolo che lodava i derivati. Capo del personale Mark Patterson, un ex lobbista per la Goldman. Come senior advisor fu scelto Lewis Sachs, un sovrintendente della Tricadia, una compagnia coinvolta pesantemente nelle scommesse contro le azioni dei mutui che vendeva. A guidare la Commodity Futures Trading Commission, Obama pose Gary Gensler, un ex dirigente della Goldman Sachs, che aiutò ad abolire la regolarizzazione dei derivati. Come capo della commissione per i titoli e gli scambi, Mary Shapiro, ex amministratore delegato della FINRA, il corpo di autoregolamentazione dell'industria bancaria di investimento. Il capo dello staff di Obama, Rahm Emanuel, guadagnò $320,000 nel consiglio della Freddie Mac. Sia Martin Feldstein che Laura Tyson sono membri del consiglio consultivo della ripresa economica. E il capo consulente economico di Obama è Larry Summers. Allora, Sapelli, non c'è molto da dire, noi lo diciamo da tempo, c'è un bellissimo film su questo, guardatelo, è anche in DVD, Inside Job, insomma, è difficile che i tacchini anticipino il Natale o quant'altro. Bella questa, bella. Comunque, ed è chiaro che se ti circondi di gente che prima lavorava nelle banche d'affari e poi dopo tornerà nelle banche d'affari, le riforme è difficile che le facciano contro se stesse e contro il loro futuro. Mi dica una cosa... Chi dice che Francia, Italia e anche Spagna non dovevano farsi prendere dal panico tra fine luglio e agosto e fare delle manovre finanziarie non solo recessive, non solo con più tasse e minori spese per abbassare il debito, ma pensare anche al futuro, perché sennò questo meccanismo si avvita, ha ragione o no? O era impossibile? Certo. Ha ragione. Certo, vale ciò che abbiamo detto prima. In primo luogo bisognava fare quella riforma, bisognava spezzare in due l'industria finanziaria mondiale, questo va scontato. Poi devo dire, io francamente non condivido quest'idea neoclassica, piuttosto primitiva, che il debito pubblico di per sé faccia male alla crescita. Questo non è dimostrato da nessuna parte, parlo di un'economia che guardi soprattutto alla produzione. Devo dire. Innanzitutto il debito pubblico ha una sola cura, la crescita e l'inflazione. Noi siamo usciti da due grandi guerre mondiali, abbiamo avuto, e come abbiamo curato il debito pubblico? Non potevamo certo fare una politica di ammazzare il cavallo, dovevamo farlo correre il cavallo. L'abbiamo fatto con la cura dell'inflazione. Naturalmente in una Europa dove la Germania, che ha perso nel Novecento tutte le guerre ma ha vinto tutte le paci, ha fatto un takeover economico dell'Europa, imponendo il suo modello di sviluppo a paesi che non possono raggiungerlo. Io vorrei essere un bravo operaio tedesco e un bravo imprenditore tedesco, però purtroppo vivo in un plesso di paesi che si chiamano Europa del Sud, che quella roba lì non potranno mai farla. Quindi se io penso di arginare il debito pubblico aumentando le tasse, ma non posso mai farlo. L'unica via è quella del quantitative easing, cioè bisogna di nuovo pompare liquidità nel sistema. Cioè lei dice, le banche centrali, come la Federal Reserve in America e la BCE da noi, dovevano creare inflazione. Come si crea l'inflazione? Si crea se stampi moneta. Come puoi stampare moneta? Beh, se la banca centrale compra debito, ma c'è tanti modi per di farlo. Fatto sta stampando moneta, questo ma è quasi certamente divisi. C'è tanti modi per farlo. Domanda, ma stampando moneta io creo liquidità, Sapelli, non è che favorisco o metto ancora più acqua nell'acquario della speculazione? Così no, c'è calma, certo, no, tutto sta a vedere. Se tu non hai fatto quella riforma delle banche che abbiamo detto prima, certamente, perché oggi davanti in America e anche qui, anche se purtroppo abbiamo l'ispettore Clouseau della Banca Centrale Europea che pensa che il pericolo sia l'inflazione, mentre il vero pericolo è la deflazione. Nonostante che mettiamo liquidità, non c'è un'inflazione. Perché come adesso non si può dire che l'inflazione al 2% sia inflazione, no, per favore. Ecco. Perché? Perché non va all'economia reale, non va all'economia reale questa liquidità. Va a alimentare la finanza per la finanza. Cioè va a alimentare le banche. Va a alimentare le banche e quelle ormai, in Europa soprattutto, in Italia non ne parliamo perché abbiamo solo più due grandi banche, abbiamo un oligopolio bancario che non compete ma collude, e chiaramente che, voglio dire, sono così inefficienti e inefficaci nel retail che non riescono, nonostante l'iniezione di liquidità, a capitalizzarci secondo Basilea 3. È sconcertante vedere che l'ABI protesta contro Basilea 3, no? Cioè che aumentare la riepilogo, lei dice, siccome non si è fatta la separazione tra banche ed affari, certo, non si sono messi certo. paletti. Certo. In questo momento tutti i soldi che la Banca Centrale Europea butta sul mercato, i 30 miliardi di obbligazioni italiane che ha comprato, non vanno a creare inflazione, cioè non vanno a noi e quindi vanno noi, a noi all'economia reale, all'economia reale spendendo di più, risucchiate dall'idrovola bancaria che succhia e spreca. Senta Sapelli, ma quindi lei è d'accordo nel dire che la sua ricetta per curare il debito è cresce di più e avere inflazione? No, calma, aspetta. Perché detto così ti pigliano per pazzo. Okay. No, fare tutto questo, poi aumentare l'età pensionabile donne e uomini a 67 anni, tutti subito, togliere l'IRAP, che non si può avere una tassa che... L'IRAP? L'IRAP, cioè voglio dire la tassa, i profitti, l'occupazione e gli investimenti. Ma come puoi crescere con una tassa così? Allora, eliminiamo questo, aumentiamo di 2 punti l'IVA e siamo a posto, ragazzi. Ah, 2 punti in più di IVA, secondo ma lei? Certo, età pensionabile certo, a 67 anni. No, adesso non oso pensare gli ascoltatori, ma dico e eliminare l'IRAP, perché l'IRAP si paga anche quando tu non cresci, questo ma va detto. Esattamente. Quindi è una tassa, secondo alcuni, recessiva. Abbiamo salvato le banche e le abbiamo permesse poi di rispeculare. In questo momento l'inflazione che potrebbe essere generata dalle banche centrali, come quella europea, che comprano titoli di Stato e quindi stampano moneta, di fatto non si verifica, perché tutte queste operazioni vanno a vantaggio solo delle banche e non dell'economia reale. Domanda, che cosa manca in questa finanziaria? Ho capito, 2 punti percentuali di IVA in più, eliminare l'IRAP. Aumento delle pensioni a 67 anni, aumento dell'età pensionabile a 67 anni, questo è inderogabile se non vogliamo il default. E poi le diceva eliminare anche l'IRAP. Che cosa le piace di questa manovra? Diciamo, mi piace la tracciabilità, mi piacciono le misure anti-evasione, perché sono quelle che aveva inventato Visco, quindi è un po' comodo per Tremonti dire da dove vengono, però vengono di lì con un po' meno, con un po' meno, diciamo, spirito vampiresco che era tipico di Visco. Mi piace quello fondamentalmente, non mi piace la confusione, non mi piace che una manovra finanziaria passi per il Parlamento e abbia gli emendamenti. Una manovra finanziaria di un paese responsabile la fa il Ministro del Tesoro, il Consiglio dei Ministri la approva, va in Parlamento, si chiede la fiducia e non ci sono nessuni emendamenti, perché in questo modo siamo il paese dei pagliacci e di Pulcinella. Basta, dire, non è possibile approvare una finanziaria in un momento così drammatico raccogliendo migliaia di emendamenti. 600 emendamenti, non sono migliaia. Sì, vabbè, insomma, comunque. Sempre tanti. Centinaia, scusi. Senta, chi dice che mancano misure per la crescita? Sbaglia, perché in realtà la politica economica non può avere, una finanziaria non può avere tante misure per la crescita, o dice il vero? Ma dunque, chiaramente che una manovra finanziaria in questa situazione drammatica è difficile che abbia delle misure per la crescita. Potrebbe avere delle misure per la crescita, come dicevo prima, se avesse una compensazione delle tasse che si levano, si diminuiscono quando colpiscono le fonti dello sviluppo, e ho fatto un cenno prima, impresa e lavoro vanno detassati fortemente, e naturalmente bisogna trovare una compensazione di questa mancata entrata altrove. Io le trovo nell'aumento delle età pensionabili, un po' di sacrifici che inevitabilmente, anche se sono diseguali, ma insomma la gente deve rendersi conto che vive nel capitalismo e quindi c'è lo sfruttamento del capitale sul lavoro, quindi quando ci sono cose di questo tipo a pagare sono sempre i meno fortunati, i meno abbienti, quindi bisognerà anche pagare un po' di ticket sulle spese sanitarie, bisognerà chiudere un po' di ospedali. Io anche di questa cosa non ho sentito dire nulla, abbiamo tantissimi piccoli ospedali, e invece sento queste baggianate sul costo della politica, che sono importantissime dal punto di vista morale, per carità, ma dal punto di vista economico mi fanno ridere, quando poi a portare queste parole d'ordine sono i sindacati, che sono seduti su un'immensa burocrazia, non parliamo poi degli enti bilaterali, allora diciamo il mio sorriso ironico si trasforma in un pianto drammatico, perché sono davanti a delle ipocrisie terribili. Ecco, quindi è tutta una grande, lei, confusione. Suggerendo due punti in più di IVA e anche la pensione mangeremo a 67 meno bistecche qualche volta, pensione faremo un po' di sacrifici a 67 anni, e poi anche che i costi della politica non sono il tema principale, se fa un partito arriva allo 0,2, scarso. Ma io non devo mica essere eletto. No, certo, però sull'IRAP invece vedo che come messaggio al 349-238-6666 ci siamo, attenzione però, uno elimina l'IRAP che porta praticamente tutti i costi quasi della sanità, se poi aumenta... Ripigliamo da un'altra parte, ma non si può continuare in questo modo. Ecco, un'ultima cosa, vorrei capire una cosa. La critica che sta arrivando in questi giorni, è due giorni che il Wall Street Journal e il Financial Times bastonano l'Italia. Sì. Ora, noi sappiamo che la stampa britannica è encomiabile, però anche la stampa britannica, agli editori e a quant'altro. Allora, non vorrei che questo fosse il preludio per poi un nuovo attacco all'Italia. Ce lo meritiamo? Perché se io leggo quello che dice oggi, dopo l'attacco già durissimo di ieri, il Wall Street Journal dice in passato le buffonate di Berlusconi hanno danneggiato l'Italia, ora possono danneggiare l'intera zona euro. L'Europa potrebbe finire per pagare un prezzo elevato per il teatrino della politica italiana. E questo è il Wall Street Journal. Il Financial Times, sempre oggi... dice la maggioranza di governo è impantanata sulla manovra economica, la crisi porta a galla le debolezze dei principali attori della commedia italiana. Cos'è, un preludio a nuovi attacchi speculativi o ce lo siamo meritato? È un preludio a nuovi attacchi speculativi che ci siamo meritati. L'oligopolio finanziario mondiale prende di mira i paesi che non hanno prospettive di crescita e uno a uno li attacca, e quindi adesso si stanno preparando ad attaccare a noi, ripeto, con un governo che fa una politica di questo tipo mentre sta crollando il Titanic, affonda, vedi gli iceberg, e fa le finanziarie a colpi di emendamenti, si riunisce ad Arcore invece che al Consiglio dei Ministri per fare una cosa seria. Ma ragazzi, ma che idea dell'Italia? Non parliamo dell'opposizione, che ha 40 idee diverse, che non si riesce a fare un coordinamento, non riesce a fare un documento unitario. Purtroppo la mia generazione ha passato tutta la vita a cercare di smascherare e falsificare quelli che dicevano che l'Italia erano solo pizza e mandolini, ma quando si assiste alle cose a cui si assiste in questi giorni,